se bravi chi uccida mia gloria, il regno, la sposa, gli affetti arrivar, gli affetti, il regno, la sposa, gli affetti arrivano.